Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea di Radio 24. Questa settimana, come potete immaginare, tanti gli articoli dedicati al discorso di Renzi che si è insediato come rappresentante dell'Italia nel nostro semestre di presidenza europea, e direi che insomma possiamo goderci per una volta la stampa positiva, anche perché non sappiamo quanto durerà poi questa luna di miele. E allora cominciamo dalle Figaro, quotidiano di centrodestra, quindi anche diciamo schierato politicamente non esattamente dalla stessa parte di Renzi, anche se poi Le Figaro è un quotidiano molto autorevole, quindi non è un quotidiano inutilmente di parte, potremmo dire. Comunque questo ha scritto il giorno dopo appunto il discorso di Renzi al Parlamento europeo. Giovane e dotato di un innato senso della comunicazione, il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi ha saputo infondere uno slancio di fiducia a un paese depresso da 2 anni di austerità. E poi, venendo alla questione europea, nel momento in cui l'Italia assume la presidenza dell'Unione, per 6 mesi lo sappiamo, punta a utilizzare bene i suoi talenti per esigere dall'Europa un cambio di direzione. Questo sappiamo appunto è stato quello che più o meno velatamente Renzi aveva già chiesto prima del discorso e che poi ha ribadito chiaramente in questo discorso. E poi scrive Le Figaro con una punta così di ironia: Angela Merkel è stata sedotta da lui, gli accorda quello che aveva richiesto, più flessibilità nell'applicazione delle regole di bilancio per i paesi che applicano le riforme e più clemenza per le spese destinate a investimenti. Ora sappiamo che non è esattamente così, nel senso che qui c'è stato un po' un balletto di dichiarazioni tra il portavoce di Angela Merkel e poi invece il ministro delle finanze Schäuble, però che la Germania si sia un po' ammorbidita nei nostri confronti è possiamo dire che sia vero. Passiamo allora al New York Times, perché anche il New York Times ha notato la figura di Renzi e questa data simbolica del 1 luglio come inizio della presidenza europea. Scrive il New York Times: si tratta di una carica soprattutto cerimoniale, ma Renzi intende usare i 6 mesi di presidenza come una piattaforma dalla quale dare sollievo all'economia del suo paese appesantita dal debito. Dopodiché anche gli Stati Uniti, anche per gli Stati Uniti, per il quotidiano americano, questo non è il primo articolo naturalmente che appare su Renzi, c'è un carisma, e anche qui ripeto, godiamocela questa buona notizia, perché talmente spesso siamo un po' presi in giro per anche diciamolo l'aspetto fisico dei nostri politici. Bene, qui c'è un cambio di rotta e quindi New York Times definisce Renzi carismatico e riformista, e poi anche assediato dai fotografi. Questo ha fatto molto effetto, che sia appunto stato, che sia diventato, che sia così popolare che lo si voglia proprio fotografare, vedere, intervistare. Secondo poi il New York Times fa anche un po' un'analisi politica, anche se dall'altra parte dell'Atlantico, da una parte forse hanno il vantaggio di vederci con un po' di distanza, dall'altra forse non capiscono tanto bene certi meccanismi, perché noi siamo una cosa diversa dagli Stati Uniti d'America, siamo gli Stati Uniti d'Europa se vogliamo, ma con culture talmente diverse tra loro che è un po' difficile interpretarci con gli occhiali americani. Però insomma ci provano ed è giusto che lo facciano, e quindi il New York Times scrive: Angela Merkel respingerà in realtà questo ammorbidimento totale, questo ammorbidimento anche in grande che si chiede sulle regole del patto di stabilità, perché comunque Angela Merkel a sua volta all'interno della sua coalizione, quindi all'interno per quanto riguarda i suoi elettori tedeschi, deve rispondere anche ad altre istanze. Passiamo allora proprio ai giornali tedeschi, ed ecco qui che per esempio la Süddeutsche Zeitung, che è un giornale, uno dei più importanti giornali tedeschi, molto diffuso nel sud della Germania e diciamo con un orientamento un po' di centro-sinistra, ma anche Handelsblatt, che è un po' una sorta, è un giornale economico, una sorta di Sole 24 Ore tedesco se vogliamo. Ecco, allora Selfie per l'anima è quello che titolato la Süddeutsche Zeitung, perché all'indomani del discorso all'Europarlamento questo giornale bavarese ha segnalato che i cristiano democratici e i socialdemocratici sono tutt'altro che uniti sulla politica dei prossimi 5 anni, che però adesso hanno deciso tutti quanti di cercare di abbracciare questo slancio di ottimismo, se vogliamo, per uscire dalla crisi, che comunque lo sappiamo, la Germania può continuare a definirsi locomotiva europea, ma è chiaro che se il resto d'Europa annaspa, poi alla fine anche la Germania soffre. Il secondo dice poi la Süddeutsche Zeitung, sottolinea una cosa che abbiamo detto in tanti, che il problema è che Renzi deve far seguire alle sue anime rimate parole i fatti. Su questo è manchevole, diversamente da come era stato calcolato, l'economia in Italia non cresce ma ristagna, aggiungo io, abbiamo sentito anche nei nostri approfondimenti qui di Radio 24 in questa settimana che è appena passata, quanti dati appunto purtroppo un po' meno positivi di quanto si poteva auspicare siano usciti. Ecco, allora passiamo a Handelsblatt, che è il quotidiano insomma il quotidiano delle imprese, se vogliamo, fotografa questo cambiamento e dice: Roma ha preso la presidenza del Consiglio europeo e vuole migliorare la sua immagine. Secondo Handelsblatt, Renzi per ora può effettivamente agire a testa alta, forte del risultato elettorale che sappiamo, col 40% di voti andati al Partito Democratico, dove, che tra l'altro ricorda Handelsblatt, l'Italia è un po' l'unico paese dove è stata bloccata l'avanzata dei populisti e per contro questo voto così pesante, così importante all'interno del Parlamento ha bloccato questa avanzata anche in senso più generale all'interno del Parlamento europeo. Passiamo a Le Monde, perché Le Monde si occupa del Regno Unito. Ricorderete tutti, ne avevamo parlato tanto, l'ultimatum di Cameron, che forse sperava di ottenere qualcosa di più dicendo: se sceglierete Jean-Claude Juncker, come in effetti poi è stato, come candidato alla presidenza della Commissione europea, la Gran Bretagna se ne andrà. Questo spettro dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, che è uno dei paesi, la Gran Bretagna è uno dei paesi fondatori dell'Unione europea, viene chiamata in gergo Brexit, cioè The Britain che exits di EU, e Le Monde titola: ma che cosa vuole il Regno Unito? E secondo, appunto, scrive l'articolo di Le Monde, la Gran Bretagna fa parte dell'Europa, ma la polemica sulla presidenza della Commissione europea ha fatto di nuovo sorgere questo spettro del Brexit. Questo quotidiano naturalmente condivide per esempio l'opinione di quel Wolfgang Schäuble che abbiamo già citato, cioè il ministro delle finanze tedesco, che ha già definito assolutamente inaccettabile un'eventuale uscita del Regno Unito. È una cosa effettivamente della Gran Bretagna e del Regno Unito, sarebbe più corretto dire, è una cosa, se ci pensate, incredibile da pensare, no? Perché finché contempliamo referendum locali dove alcune regioni di alcuni paesi pensano di potersi staccare dalla loro nazione, l'idea che il Regno Unito esca dall'Unione Europea è pazzesca. E allora Le Monde ricorda anche questa intervista appunto di Schäuble, che Schäuble ha dato a Financial Times su questi stessi temi, e conclude che è sempre più difficile accontentare questi umori d'oltremanica. Ricordiamo che Cameron ha fatto queste dichiarazioni così forti, cioè appunto che sembravano quasi un ricatto, perché all'interno del Regno Unito sì che è cresciuto l'euroscetticismo, e tanto anche, quindi è di nuovo una questione di politica interna che si mischia con una di politica europea. In fondo, si chiede Le Monde, che cosa vogliono i britannici? Loro stessi fanno parecchia fatica a formulare rivendicazioni concrete, al di là delle proteste contro una burocrazia di Bruxelles che sono largamente condivise in Europa. Le elite britanniche devono ritrovare con urgenza il cammino della ragione e della responsabilità, prima che sia troppo tardi. Questa è l'opinione di Le Monde. E poi citiamo, visto che siamo in Francia, anche un altro quotidiano francese che non ci capita spesso di citare, che è Le Croix, e anche qui questa volta ci viene in aiuto Press Europe, sapete, quel sito che ha ripreso a funzionare, che come noi cerca di monitorare la stampa europea sulle questioni europee, e scrive Le Croix: un accento italiano per l'Europa. L'Italia ha assunto il 1 luglio la presidenza, il capo del governo punta a sfruttare questo semestre per invertire le politiche di rigore. Per il quotidiano francese, aperte virgolette, galvanizzato dalla storica vittoria del Partito Democratico, ricordiamo ancora una volta col 40,8% dei voti conquistati il 25 di maggio, Matteo Renzi ha dato un impulso contro l'austerity. Vuole un'Europa che cambi rotta, meno burocratica, più aperta verso un uso flessibile del patto di stabilità, che dia la precedenza all'occupazione, ai giovani, alla crescita, all'innovazione. Cambiamo un pochino argomento, visto che sicuramente il tema di questa settimana era questo, il discorso di Renzi a Bruxelles e in generale il semestre di presidenza europea, però ci sono state anche tante altre notizie. Vi cito per esempio il fatto che dal 1 luglio, perché è un tema che tra l'altro ci riguarda tutti, sono entrate in vigore i tagli alle varie voci imposte dalle normative europee, a cominciare dal roaming sui dati. Allora, scrive Financial Times, la telefonia mobile sarà meno cara per vacanzieri e viaggiatori che si apprestano o che magari sono già in moto all'interno dell'Unione Europea. I casi, per esempio, del roaming possono calare fino al 55%, con un percorso di riduzione a tappe che vede l'Unione Europea puntare ad azzerare questi costi sul roaming per la fine del 2015. Caleranno di circa un quinto i costi di chiamate e messaggi effettuati dall'estero, sempre all'interno dell'Unione Europea, e Neelie Kroes, che è la commissaria, ancora non per molto probabilmente, però, alle telecomunicazioni, ha rivendicato il fatto che diverse società di telecomunicazioni hanno tagliato le tariffe sotto i tetti massimi già prima di questa deadline del 1 di luglio, quindi probabilmente c'era stata un'operazione, e Neelie Kroes dice implicitamente di moral suasion da parte nostra. L'ultima notizia che vi segnalo per allargare anche un po' lo sguardo oltre i nostri confini dell'Unione Europea la riporta ABC, che è un quotidiano spagnolo. Sentiamo arrivare queste notizie sconvolgenti dall'Iraq, questa escalation di violenze. Ecco, ABC ci ricorda che il conflitto in Iraq minaccia anche la nostra ripresa economica. Lo scontro tra i combattenti dello Stato Islamico in Iraq e del Levante, l'ISIS, e l'esercito iracheno potrebbe avere conseguenze importanti sull'economia europea, se si estende al sud dell'Iraq, e ancora di più se verranno coinvolti Siria e Iran. Si sottolinea che il prezzo del greggio ha già registrato un aumento del 5% nell'ultima settimana proprio per via di questo conflitto. Siamo in estate, sembra che in questo momento nessuno forse ha paura del prezzo del greggio. Tra qualche mese lo scenario potrebbe essere molto difficile, molto diverso, oltre naturalmente al fatto che un'escalation di guerra non la vorrebbe davvero nessuno. Era l'ultima segnalazione che sono riuscita a farvi. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.